consapevole di correre nel senso opposto al vostro, abominevole considerarmi agli occhi vostri un mostro. Posso risultare simpatico come l'inchiostro, vi scandalizzate quando come vivo vi dimostro. Preferite non esporvi, preferite indifferenza, preferite continuare a credere di avere coscienza. Pazienza, non mettete neanche l'esca sulla lenza, professate la ragione dalla vostra consistenza e vi pensate grandi. Siete solo mendicanti, vi sfruttate reciprocamente per andare avanti, come vuole la più vecchia tradizione. Siete amanti, vi unite in matrimoni dove contano i contanti. Pretendete amore, però voi non lo sapete dare, puntate il dito contro, non cercate di imparare. Vivo col sorriso, voi costretti ad invidiare, contro la morale, quello che io chiamavo amare. Ore spese nei locali, circondato da falliti, soldi spesi nelle notti, sogni mesoditi, paradisi artificiali, con i sensi ormai tonditi, quella strana sensazione d'essere sempre più graditi. Uniti, non so neanche da che cosa, sui divani, nel presente più distorto, costruivo il mio domani, disprezzato da tenori, prime voci da soprani, fuori da quel coro, gara colpo aveva mille mani, vani tentativi di tornare in carreggiata, seguire i vostri passi verso una vita bruciata, tocco il fondo con le mani e ricomincio la scalata. Ora che da tempo ormai non vivo più la notte, mi considerate vecchio, cazzo me ne fotte. Da tempo le barriere di quei limiti le ho rotte, le cose che desideravo ormai le ho fatte tutte. Non mi serve una vacanza, quando vado alla sostanza posso avere tutto quanto il cielo chiuso in una stanza. Parli, sono attento, non ti do importanza, parlo, non mi ascolti, vivi di ignoranza. Ti continui a lamentare, non fai nulla per cambiare, annoiato dalla vita ma non sai cosa cercare. Sei tranquillo mentre vivi nel continuo disperare, vuoto, sei capace solamente di emulare. Trovo la bellezza nelle cose più normali, non bevo più Red Bull per avere un paio d'ali. Libero e voi schiavi vi sentite più normali, incatenati da quei vincoli delle vostre morali, sempre uguali, anni luce dalle vite più reali. Siete persi, avete perso tutti gli ideali, rari quei momenti in cui seguite il vostro istinto, pari solo a quelli dove forse avete vinto. Vari argomenti che non mi hanno mai convinto, interpretando a modo mio come dei quadri ho ridipinto. Già da tempo canto che io muoio ogni mattina, vivo in pieno lato scuro fatto di lovocaina. Bambina, tranquilla se la fine si avvicina, coi rimpianti stiamo a zero, per voi solo pantomima. Come prima cosa devi cominciare a vivere, gioca fino in fondo anche se gli altri stanno a ridere. Cavalca la tua vita, questo è tempo di decidere. Perfetta la risata quando sarai già oltre il limite.